A bordo campo di Dario Ricci. È la società italiana di rugby più titolata, pensate, ben 18 scudetti in bacheca, ma è precipitata in Serie B, campionato che sta affrontando con un pesantissimo meno 20 in classifica per varie inadempienze regolamentari. Stiamo parlando dell'Amatori Milano, squadra prestigiosa della nostra palla ovale, che prova però a rinascere con un nuovo progetto, con nuovi imprenditori che si sono fatti carico della società, il gruppo Navarra, il padre Walter e il figlio Carlo, che è il neo presidente, e che tornerà il 23 ottobre in campo all'Arena Civica di Milano, altra casa storica del rugby milanese. E allora noi oggi vi raccontiamo proprio questo progetto di rinascita. Siamo stati all'Arena, abbiamo incontrato i protagonisti di questo progetto, Walter Navarra e l'allenatore dell'Amatori Milano Mauro Vaghi, e sentiamo un po' dove va la palla ovale milanese dopo un periodo tanto buio e travagliato. Oggi a bordo campo si trasferisce qui all'Arena Civica di Milano, casa dello sport milanese e casa del rugby. Le porte e i pali sono già montati. Perché? Perché sta per ripartire l'avventura dell'Amatori Milano, la società italiana rugbistica più titolata, che parte con un'avventura, un progetto del tutto nuovo. Al nostro microfono Walter Navarra, il senior president della società e capofila del gruppo che ha rilevato l'Amatori, che riparte dalla Serie B dopo un periodo molto travagliato della sua storia. Presidente Navarra, allora, perché questa scelta? La scelta deriva dal cuore, deriva dal fatto che noi, venendo dall'Aquila, abbiamo questo sport veramente dentro di noi, cucito sulla nostra pelle. Siccome viviamo da 20 anni e lavoriamo da 20 anni a Milano, ci è sembrato giusto rilevare questa gloriosissima società che altre persone avevano gestito in maniera pessima, facendo addirittura retrocedere la società dalla 1 fino in Serie B, e fra l'altro distruggendo quello che era il patrimonio dei giocatori, non avendo campi da gioco, non avendo nulla. Noi ripartiamo da questa situazione molto, molto brutta con le migliori intenzioni. Nel giro di 10 giorni abbiamo già ricostituito la squadra. Abbiamo una mischia pesantissima di più di 900 kg e penseremo, a partire dalla mischia, di rullare le altre squadre. Beh, la grinta non manca, Presidente, servono anche però investimenti. Ecco, possiamo quantificare lo sforzo del gruppo Navarra per questo progetto di rinascita dell'Amatori? Allora, lo sforzo del gruppo Navarra parte da una base che noi dobbiamo rilevare, purtroppo, che sono tutti i debiti che hanno lasciato i vecchi signori, che superano ampiamente il milione di euro. E noi dobbiamo farci carico di risanare questa situazione. Oltre a risanare questa situazione, stiamo facendo degli investimenti nell'ambito delle strutture, cercando i campi da gioco, la clubhouse, la sede sociale, e questo ci permetterà intanto di fare la formazione dei ragazzi, che per noi è la cosa fondamentale, ripartire dalla formazione delle giovanili, dalla formazione di chi gioca al rugby. E per questo motivo abbiamo fatto un accordo con il Perpignan, che è un club importantissimo francese, che ci fornirà degli allenatori proprio per formare gli allenatori italiani, gli allenatori delle giovanili. Concetto di formazione che rimanda parallelamente, adesso lo spieghiamo, anche a quello di franchigia. Abbiamo parlato di un Amatori di Milano che rinasce e che guarda anche a quella che è l'esperienza che già altri club, Viadana, Treviso, stanno rilanciando, anche se in modo diverso, nella Celtic League. Ecco, voi interpretate questo concetto di franchigia come soprattutto un'opportunità tecnica potenzialmente ancora non sfruttata a pieno anche in ambito regolamentare da parte della Federrugby, è così? Esattamente, è una domanda molto intelligente. Perché? Perché noi facciamo riferimento a quella che è l'esperienza delle realtà celtiche, in pratica, dell'Irlanda e del Galles. Loro si muovono nell'ottica della franchigia. Ad esempio, il Munster è una squadra che non ha tesserati. I tesserati di questa squadra fanno parte di una miriade di società che sono 82 mi sembra, che forniscono ogni volta i giocatori al Munster, e quando non giocano con il Munster giocano con la società di provenienza. Quindi quello che noi vogliamo fare qui è una cosa analoga. Abbiamo già contattato diverse squadre, non solo dell'Interland milanese, il Crema ed altre squadre, adesso il direttore sportivo magari sarà più preciso di me, ma anche squadre, il San Benedetto del Tronto per esempio, che ci ha dato una grossa mano, il CUS, l'Aquila Rugby, che vuole partecipare anche a questa franchigia. Quindi noi intendiamo la franchigia come un'unione di società che vogliono consorziarsi proprio per partecipare ai benefici della formazione che i super allenatori che verranno a formare i tecnici italiani riusciranno a portare per il miglioramento della qualità del gioco. Presidente, è un progetto importante, tanti obiettivi, non nascondiamoci che però Milano è una città da sempre refrattaria al grande sport che non sia calcio, vuoi per il tema delle infrastrutture, vuoi per una cultura che forse anche recentemente è andata a perdersi. Spaventati dalla sfida metropolitana? Beh, in effetti ci sarebbe da spaventarsi, però noi siamo persone abbastanza modeste, noi partiamo dal basso e dalla formazione dei giovani, da lì partiamo. Quindi noi non dobbiamo comprare giocatori per far bella figura, non dobbiamo fare quello che normalmente succede nel calcio. Noi partiamo da noi stessi, dai nostri soci, dai nostri affiliati, da chi vuol partecipare con noi, dalle altre squadre che ci stanno dando una mano e ci hanno dato i giocatori in prestito, da lì partiamo. E quindi non bisogna avere paura, come quando si scende in campo nel rugby. Chi ha paura di chi? Qua non si ha paura di nulla, si gioca fino alla fine per 80 minuti e si mette in mostra quello che si ha. Se noi perdiamo, perdiamo, se vinciamo, vinciamo, alla fine c'è il terzo tempo che mette d'accordo tutti. Senta, ritiene possibile in conclusione anche un'eventuale collaborazione, dialogo col grande calcio milanese, con Inter e Milan? Altri, ad esempio il basket, ci hanno provato. Storicamente l'Amatori Milano parte proprio dall'Ambrosiana Inter, era una costola dell'Ambrosiana, dopo si è staccata e è andata avanti per conto suo. Non lo so se questo sia possibile, però in effetti quello che credo è che noi intanto piano piano con piccoli passi cominciamo a formare la nostra squadra, cominciamo a trovare, e come abbiamo già fatto, i campi di allenamento, la sede, la clubhouse, e da lì ripartiremo. Allora, qui all'Arena Civica di Milano, una delle case storiche del rugby milanese, con il progetto dell'Amatori che riparte proprio dal campo, anche se chiaramente da una situazione difficile, la Serie B, la dura penalizzazione. Panchina affidata a Mauro Vaghi, nome storico di questa società. Beh, coach, insomma, innanzitutto il passaggio dal campo alla panchina nel giro di pochi mesi, come l'ha vissuto? Beh, emozionante terminare la propria carriera quando ti giri e dici caspita, sono già passati 30 anni, però con la confidenza di poter continuare a respirare l'aria degli spogliatoi, a calpestare il campo, seppur da un'altra parte, ma dall'altra parte della linea di touche, ma con la consapevolezza di magari volere o potere o vedere se si è in grado di insegnare, di trasmettere qualcosa, quel qualcosa che ho acquisito durante appunto la mia carriera rugbistica. Spero proprio di riuscire a fare, mi piacerebbe riuscire ad aiutare questa squadra, il rugby in particolare, a raggiungere degli obiettivi, insomma gli obiettivi che ci spettano, che sono quelli di ritornare ai massimi livelli, e ovviamente con un mio contributo. E poi ovviamente sarà anche una sfida per me, per riuscire a vedere se sono in grado, se sarò in grado di fare quello che mi sono messo e prefissato per adesso, con l'aiuto appunto, anche come abbiamo proposto nel progetto, di una scuola importante come quella francese. Eh sì, tanti gli obiettivi. Il primo direi è quello di assemblare un gruppo formatosi proprio negli ultimi giorni con giocatori che arrivano in prestito annuale da diverse realtà lombarde e extra lombarde, no? Sì, come dicevo prima, un ensemble. Non saranno culture, proviamo da culture momentaneamente rugbistiche diverse, ma credo che

e soprattutto cercare di raggiungere sempre più giocatori e offrire sempre più partite a disposizione nella propria zona. Ecco, la cosa bella di Fubles.com, io mi sono un po' divertito a navigarlo leggendo anche qualche articolo, è che c'è la possibilità di far incontrare l'organizzatore anche col singolo giocatore, nel senso che si può accedere al portale sia come organizzatore, quindi lanciare tramite Twitter, Facebook il richiamo agli altri 9 potenziali giocatori, sia anche come singolo, cioè come quello che la sera sta cercando vicino casa una partitella di calcetto e quindi si mette a disposizione nei campi più vicini, sempre in forma virtuale, per essere contattato ed ingaggiato, no? Proprio così, sono due categorie che si incontrano in uno spazio virtuale per poi andarsi a giocare una partita del tutto reale. Quindi se sei un organizzatore, metti la tua partita nel sistema perché hai prenotato un campo e hai una rosa ampissima di persone disposte a giocare, che vengono convocate letteralmente in maniera automatica. Se sei un giocatore, invece, ti iscrivi e scopri subito se ci sono delle partite nella tua zona e se sono pubbliche, per esempio, vuole proprio dire che i partecipanti stanno aspettando te per completare la rosa. Ecco, la cosa anche importante è questa possibilità di andare a giocare nella propria zona, perché Fubles.com mette a disposizione, insomma, un sistema di ricerca, per semplificare, che parte proprio, diciamo, dall'indirizzo che tu indichi e quindi, diciamo, si esercita, si applica a partire dalla zona più vicino a casa tua. Assolutamente, ti serve le partite più giuste, quindi quelle in zona, ti può dire se ci sono degli amici iscritti, ti può dire l'età media, il livello, e tutto è messo, cioè un collante di tutto quanto, sono le cosiddette pagelle a fine partita, perché tornati a casa tutti i partecipanti si possono dare un feedback, un voto, che può essere anche uno sfottò, insomma è anche fonte di divertimento, però di fatto è in grado di regolare i comportamenti e indirizzarli verso il fair play, verso la puntualità, verso l'affidabilità. Insomma, considera che abbiamo giocato quasi 12.000 partite e non c'è mai stato bisogno di un arbitro. Insomma, un piccolo miracolo in Italia, no? Rispondendo a questa domanda, tra l'altro mi hai tolto già un dubbio, perché quello che avevo in mente io era un problemino, cioè magari è vero che trovo gli altri 9 per giocare a calcetto, ma magari sono 9 fenomeni o 9 scarsissimi e io mi diverto ben poco. Invece con la pagella a fine gara c'è anche una valutazione che in qualche modo mi dà l'idea del livello dei giocatori con cui andrò a giocare. Assolutamente, non è un fattore, come dire, che preclude la partecipazione a partite o meno, però è proprio un piacere per le persone, per qualunque giocatore, bravo o meno che sia, di avere un feedback, sapere come si è giocato, qual è stato l'apprezzamento degli altri giocatori. E poi ci sono piccoli, come dire, gadget che aumentano il coinvolgimento, per cui per esempio viene nominato il migliore in campo, c'è un algoritmo, un punteggio che sembra quasi preso in prestito dai videogiochi, in cui uno può costruire proprio una propria carriera, parte da un punteggio e a seconda delle partite vinte, dei voti ricevuti e dati, segue un percorso. Oh, bene, quindi anche un po' un gioco di ruolo, diciamo così. Ma senti, noi di solito quando giochiamo a calcetto, a quello che organizza quantomeno gli paghiamo la benzina o gli offriamo la pizza, perché insomma lo sbattimento è considerevole. Voi invece, che ne avete fatto una startup, avete anche l'obiettivo giustificatissimo di ricavarne anche qualche soldo, no? Insomma, c'è un investimento, c'è una struttura manageriale che gestisce questo portale. Assolutamente, guarda, l'organizzatore con noi, noi lo trasformiamo nel re, gli amplifichiamo le sue doti di trascinatore, praticamente gli facciamo risparmiare moltissimo tempo e lui in qualche modo ne trae soddisfazione, ma anche in grado di movimentare persone, è in grado anche addirittura di dire, beh, questa partita i portieri non pagano, visto che sono una merce pregiatissima. Di fatto cosa succede? Che il sito è gratuito per tutti, chi gioca, chi organizza, però cosa succede? Che siamo in grado, insomma, di movimentare persone presso i centri sportivi e diventiamo per loro come dei veri e propri PR del calcetto, e quindi pur essendo gratuito per giocatori e organizzatori, i centri sportivi molto volentieri entrano in contatto con noi e ci chiedono di poter accedere a degli strumenti che sono in grado di attrarre più partite, più giocatori, riempire ore buche, riempire magari le cosiddette serate Champions, che di solito fanno saltare le partite. Ah sì sì, temutissime per chi ama il calcio giocato. So anche che avete avuto dei riconoscimenti anche economici, no? Un gruppo di investitori sta finanziando Fubles.com con 300.000 euro, se non sbaglio. Sì, abbiamo ottenuto un finanziamento da un'accordata di investitori privati, fra cui c'è anche il Serino Piol, che è un po' il padre fondatore del venture capital in Italia, quello che ha dato vita a Tiscali, ha aiutato a crescere, a nascere Jux, Venere, eccetera, insieme ad altri che hanno creduto e scommesso nel nostro team e che hanno portato delle risorse che ci stanno permettendo di perfezionare il prodotto e di esportare addirittura Fubles non soltanto nelle principali città italiane, ma stiamo giocando anche a Madrid, a Barcellona, a New York, a Londra. Insomma, è vero che lo sport è un linguaggio universale e stiamo scoprendo che Fubles, nel modo in cui lo favorisce, è apprezzato anche fuori dal nostro paese. E allora Mirko Tresciatti, mi sa che fra poco vi toccherà organizzare anche le trasferte internazionali, seguendo il successo e la scia di Fubles.com. Intanto grazie per essere stato ospite di Radio 24 e di A Bordo Campo. Una curiosità, stasera giochi però. Stasera cercherò di giocare, sono ancora in tempo per scegliere qualche partita. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo che potete dialogare con noi attraverso il nostro sito web www.radio24.it, attraverso la mail abordocampo@radio24.it e con il blog del programma sempre sul nostro sito, che è anche lo strumento attraverso cui potete riascoltarci. L'appuntamento è sempre per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina alle 6.30 in replica. Buona giornata da Dario Ricci.